con Alice Bianconiglio. Iniziamo questo viaggio, è un omaggio ai dipendenti di uno stato alla deriva, naufragato in acque scure. Chiede aiuto ai patrioti e devoti al loro paese, organizzano la ripresa. Alcuni fanno solo presenza, altri sono ottimi oratori, quasi tutti hanno dei segreti ed una piccola ambizione: arrivare ad occupare le poltrone del potere che permettono di gestire a palti grana la nazione. Ed anche stasera è arrivata in città la gente che grida, che protesterà. Si scende in piazza e il mondo sarà senza voi, senza voi. Tra indulto finanziaria, porta borse d'auto blu, spiaggia e vendesi a chiunque, le inserzioni sono varie, trovano tempo per votare, chi per sé e chi per altri, l'importante è non sprecare l'occasione ad essere scaltri, vivono sotto protezione delle autorità e garanti, l'immunità parlamentare, ed ecco tutto cancellato, ci sono brogli elettorali, schede nulle, prego avanti. Chiedi competenza, nessun reato è contestato. Conducono una vita, raccene trasmissioni, dai cortei con i votanti e discussioni in Parlamento. E fanno un po' di gossip, due o tre dichiarazioni, e vengono poi ricoverati per affaticamento. Sono un po' stressati dal troppo lavoro, onorano la causa insultandosi da loro. Ma quel che mi rattrista è che la fiducia data non verrà mai ripagata. Ed anche stasera è arrivata in città la gente che grida, che protesterà. Si scende in piazza e il mondo sarà senza voi, senza di voi. Anche stasera è arrivata in città la gente che grida, che protesterà. Si scende in piazza e il mondo sarà senza voi.